Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Essere o sentirsi bella? Questo è il tema di oggi. Che cosa siamo disposte a fare noi donne? O a rinunciare, aggiungo a volte anche a rischiare, per mantenere o conquistare la bellezza? Ma in fondo, quale bellezza andiamo cercando? Quella dell'eterna giovinezza o quella che più ci rappresenti? Allora oggi vorrei raccogliere storie che cominciano con mi sono sentita bella quando o non mi sono sentita bella quando. In questo modo ci aiuterete a capire quali sono le variabili, i contesti, gli sguardi nostri o degli altri che alimentano o mettono in crisi l'idea di bellezza che nutriamo dentro di noi. Guardami bene negli occhi e dimmi che cosa vedi. Vedo che hai un sacco di rughe, Patti. Queste qui sembrano due parentesi grafiche dentro un'equazione di secondo grado. No, ma però dentro sei liscissima di sicuro. Sì. Mi sono piena di rughe, guardi queste qua. Non sono zampe di gallina, sono galline intere. Ma cosa dici? Io non vedo niente. Lei è il ritratto della gioventù. Poi abbiamo tutte delle rughe. Sa, ce n'ho qualcuna anch'io. Ma ci mancherebbe, c'ha l'età di mia nonna. È normale che la sua faccia sia come un muro pieno di crepe. Aspetto le vostre chiamate all'800 24 00 24. Intanto saluto Danda Santini, direttrice di EL, che ha commissionato all'Istituto Piepoli un'indagine per Sorelle d'Italia 2010, un progetto nato proprio con l'obiettivo di capire e aiutare le donne nel loro processo evolutivo. Benvenuta Danda, ciao! Ciao, grazie a voi per l'invito. Danda, l'indagine è stata svolta su un campione rappresentativo di 1500 donne di età compresa tra i 20 e i 50 anni, le italiane. Ecco, che cosa ti ha colpito di più? Ma guarda, l'indagine è ad ampio spettro, riguarda tanti aspetti della vita femminile, ma per quanto riguarda la bellezza e il rapporto con il proprio corpo, devo dire che il dato che mi ha sorpreso di più è stato, anche perché l'ho confrontato con quello analogo fatto con le donne francesi, col dato analogo delle donne francesi, è che le donne italiane non si sentono poi così grasse come in questo periodo dell'anno, poi chiacchierando con le amiche, sembra. Parrebbe, sì. Parrebbe, nel senso che alla fine soltanto il 10% della popolazione italiana si sente decisamente in sovrappeso, c'è un 15% addirittura che si ritiene magra, e tutto il resto non lo ritiene un problema, non si ritiene né magra né in sovrappeso, oppure lievemente in sovrappeso, ma non in modo così marcato. È interessante perché le italiane sono mediterranee e parrebbe quello proprio del peso e del fisico la loro ossessione. Nella realtà sono molto più nevrotiche su questo aspetto le francesi, che hanno dei dati molto molto più alti. In generale mi sembra che le italiane, nonostante le chiacchiere ossessive che di questi argomenti si fanno, soprattutto in questo periodo dell'anno, mi sembra che siano molto più concrete, in fondo serene, di quanto non si possa pensare. È un dato positivo, io stessa non me l'aspettavo. Io vorrei commentare questi risultati con i miei due ospiti che sono con me oggi in studio. Alberto Pellai, ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno medico, a tutti. Medico, psicoterapeuta, ricercatore all'Università di Milano e... abbiamo il piacere di avere qua in studio, ed è, devo dire, un po' un avvenimento perché catturarlo è difficile, ma noi ce l'abbiamo fatta, il professor Antonino Di Pietro, direttore del servizio di dermatologia dell'ospedale di Inzago. Professore, buongiorno. Buongiorno, è un piacere per me essere qui con voi. E dopo tutto questo lancio, che cosa poteva dire? Allora, io vorrei commentare con Alberto e il professor Di Pietro il dato che ci ha appena raccontato la direttrice di EL. Alberto, molto spesso, no? Soprattutto tra le ragazze, la bellezza equivale alla magrezza. Direi che probabilmente sono proprio parole e dati che ci danno speranza, cioè il fatto che non identifichiamo più nell'idea di bellezza il concetto di magrezza, che quindi la magrezza non è una protesi della bellezza, anzi potrebbe essere addirittura un boomerang, mi sembra fondamentale, anche perché questo tra l'altro potrebbe davvero spingere moltissime donne a cominciare, e succede a volte nelle ragazze, una battaglia contro il proprio corpo che le rende tutto tranne che belle. E direi che il secondo aspetto, che sottolineava molto bene anche la direttrice, è che effettivamente noi abbiamo un ideale di bellezza mediterranea che non coincide in nessun modo con la donna magrissima, e dentro a questo ideale c'è un concetto di salute e di benessere che deve essere profondamente coltivato e nutrito per tutto il ciclo di vita. Professor Di Pietro. Sì, anch'io confermo questi dati. Difatti le pazienti, quando entrano nei nostri studi da dermatologi, la prima cosa che chiedono è il viso, partono dal viso. Poi inevitabilmente direi che è un 80%, poi scende anche un po' più giù e cominciano a chiedere consigli su cosa fare per le loro gambe, la cellulite e così via. Mi incuriosisce molto questo dato francese in un momento estremamente particolare, perché solo una settimana fa il Ministero della Salute francese ha bloccato gran parte di quelle cure, di quelle terapie per la cellulite, cercando di stoppare, per cercare di mettere un po' d'ordine e anche scientificità, certo, in tutto ciò che viene proposto per combattere questo problema. Arriverà anche qui? Ci si sta organizzando e verrà istituita una commissione al nostro Ministero della Salute per fare luce anche qui in Italia su questo aspetto. Danda, la ricerca descrive una donna che per sentirsi bella è più propensa a ricorrere al personal trainer che a farsi il ritocchino. Quindi sembra che la bellezza richieda un po' una strategia fatta di molti ingredienti. Ma secondo te tutto questo costa fatico e piacere? Le donne lo fanno per sé o per aderire ad un modello imposto? Allora, costa una gran fatica, nel senso che il personal trainer non a caso è messo in testa come arma per poter essere in forma. È messo in testa perché il personal trainer ha in sé un po' l'idea di qualcuno che ti obbliga, che ti vincola con gli orari, qualcuno che hai pagato e quindi poi devi fare quei certi esercizi che sicuramente sono faticosi. Però è significativo che la bellezza passi attraverso in fondo delle regole di vita sana, così ormai metabolizzate, perché è vero che appunto le nostre elettrici hanno molto forte dentro di sé l'idea che la bellezza passa per un corpo sano, che è un corpo che si muove ed è ben nutrito. Quindi mangiare bene e avere dei ritmi di vita attivi sono davvero dei pilastri mediterranei, molto italiani, molto presenti nella testa ormai delle donne italiane. Poi in secondo ordine c'è anche tutta la parte più piacevole delle creme, dei trattamenti, e lì davvero si entra in una dimensione di piacevolezza invece di rapporto col proprio corpo. Poi lo fanno per sé o lo fanno per gli uomini, diciamo che qui si avverte, e i dati del sondaggio lo fanno vedere con grande chiarezza, una dicotomia molto forte. Se lo fanno per sé, perché in prima istanza dicono di fare tutto ciò per se stesse, sono pronte ad accettare un'idea più morbida di bellezza. Quindi per se stesse la bellezza è armonia, il sorriso smagliante, un bello sguardo, una pelle curata e un corpo tonico. Se però si passa all'idea di donna che piace agli uomini italiani in questo momento, lì avvertono un disagio un pochino più forte, nel senso che hanno anche chiaro che il modello femminile che piace all'uomo italiano in questo momento è invece un modello molto sexy, un po' eccessivo, ecco, con molto seno, però trans, molto magra, quindi un modello alla fine in natura. Il professor così. Di Pietro, non so se, ecco, lui dice un po'. Sì, credo che molte donne pensino che agli uomini piacciono, con tutto il rispetto, i trans, perché vedere tante donne adesso, il tipo di modello che inseguono, labroni, zigomoni, facce tiratissime, immobili, insomma, fanno molto pensare a un'immagine trans. Quindi credo che molte donne debbano un po' rivedere questo concetto. Sentiremo anche dai nostri ascoltatori, perché noi invitiamo anche gli ascoltatori uomini ad intervenire all'800 24 00 24, mentre rinnoviamo alle nostre amiche lo stimolo, no? A rispondere allo stimolo di oggi che abbiamo pensato con Alberto, perché quando mi sono sentita bella è quando che cosa non mi ha fatto sentire bella. Quindi è proprio il racconto, la situazione che ci fa sentire piacevoli e piacenti agli altri, a noi stessi, oppure ci mette a disagio. Sì, e credo che nasconda anche una profonda verità psicologica. Quando ci guardiamo nello specchio, che cosa andiamo cercando? L'immagine reale di noi stessi che teniamo dentro di noi e che coltiviamo proprio per nutrire la persona che siamo, oppure guardiamo un'immagine che restituiamo allo sguardo dell'altro? Cioè, noi quando usciamo di casa, prima di uscire, ci guardiamo nello specchio per piacere a noi stessi o per verificare che ciò che portiamo fuori di casa piacerà allo sguardo dell'altro? È una visione completamente contrapposta. Se io piaccio a me stesso, allora a quel punto davvero faccio quello che mi fa bene. Se il corpo invece deve essere sempre perfetto per lo sguardo dell'altro, il corpo diventa una persecuzione, diventa un boomerang che ti si scaglia addosso e a quel punto tu non sarai mai soddisfatto. Questa è una cosa che quasi fisiologicamente succede in adolescenza, quando tu porti in giro un corpo che non hai ancora messo a fuoco in un'immagine mentale. Ma se succede a 40, 50, 60 anni, cioè se costantemente coltivi un corpo che deve essere perfetto non per lo sguardo tuo, ma per lo sguardo dell'altro, lì generi un'area di insicurezza intorno alla zona del corpo che poi diventa una trappola spaventosa per tutta la vita. Teo ci scrive da Milano: in generale non sapete bene cosa piace ai maschi, vi fate un sacco di male su cose che noi non notiamo. Danda, ma siamo un po' confuse, dici? Che ci... Ha proprio ragione, ma noi siamo maestre nello spezzare il nostro corpo in frammenti di imperfezioni, di inestetismi, dimenticando che per fortuna chi abbiamo davanti vede il tutto insieme, quindi coglie al volo davvero la delicatezza dei lineamenti, la morbidezza del corpo e anche la dolcezza del sorriso, perché alla fine poi sono le emozioni che trasferiamo, non questa idea di perfezione. Però è vero, le donne in questo sono proprio un po' maestre nel massacrarsi a frammenti, immaginando davvero negli sguardi degli uomini la ricerca di un ideale di perfezione che in realtà per fortuna gli uomini non hanno. Però è anche vero che i modelli, in questo davvero poi incolpano i giornali, le televisioni, il cinema, insomma i modelli femminili che bombardano con le loro immagini il nostro quotidiano, sono modelli che rasentano la perfezione, per cui il confronto, soprattutto se sei giovane, ma direi anche non poi così giovane, è complicato. Voi avete dedicato proprio un numero alla bellezza naturale. Sì, abbiamo fatto un'operazione un po' spericolata, sì. Nel senso che siamo perfettamente consapevoli del fatto che anche noi quando facciamo delle copertine che devono essere belle, devono vendere, devono piacere ed essere accattivanti, lavoriamo molto con il fotoritocco. Il fotoritocco permette di correggere una fotografia e di renderla perfetta, di eliminare ogni tipo di discromia dal viso, di ridurre lievi imperfezioni, di ingrandire gli occhi, di fare l'iride più colorata, il bianco più bianco, i denti più smaglianti, insomma è un'arma che esasperata può davvero creare delle immagini perfette ma assolutamente finte. Allora, per una volta abbiamo voluto mettere in copertina un volto senza trucco e senza ritocco. Abbiamo chiesto a 8 attrici italiane di età diverse, sì. Perché sono dalla bellissima Vittoria Puccini fino a una grande attrice che è Anna Orso, che ha 70 e oltre anni. Abbiamo chiesto a 8 attrici italiane che non hanno operato chirurgicamente in modo invasivo sul proprio viso di farsi fotografare da noi senza Photoshop e soprattutto senza ritoccare le immagini, perché la maggior parte delle immagini che noi vediamo sui giornali sono immagini molto ritoccate e quindi finte, lontane dalla realtà. E devo dire che il risultato è stato così sorprendente che alla fine abbiamo deciso di mettere in copertina Vittoria Puccini. Beh, che è bellissima, sì, quello, insomma, è giovane e quindi è sicuramente comunque un modello difficile da raggiungere, ma l'abbiamo voluta mettere senza trucco e senza ritocco. Lei, scherzando con noi durante il servizio, diceva: io ho un neo sul mento che mi tolgono sempre perché non piace a nessuno, per favore lasciatemelo. Quindi le abbiamo lasciato il neo, le abbiamo lasciato le sopracciglia che le dice sono disordinate ma fanno parte di me. direi che la cosa bella di questa copertina, che sicuramente colpisce perché si avverte che c'è qualcosa di diverso rispetto alle solite copertine, ma non si riesce a capire al volo che cosa, è che effettivamente le copertine vere trasmettono un'emozione diversa. Assolutamente. E tra l'altro vorrei passare la parola al professore Di Pietro, perché lei è stato proprio uno dei primi a parlare di bellezza autentica, però nell'immaginario collettivo un professionista come lei, tutti i professionisti che hanno a che fare con la bellezza sono quelli che possono anche crearla aggiungendo, spianando, togliendo, a volte inventando anche nuovi volumi. E allora io volevo chiedere quanto la tecnica e la scienza sono al servizio della bellezza e quanto invece possono stravolgerla. Ah, tantissimo, ma innanzitutto volevo fare i complimenti a Danda. Ciao Danda, complimenti. Ciao. Noi ci conosciamo da tantissimo tempo, so come la pensi e mi ha fatto molto piacere leggere il servizio che hai fatto, che a me servirà tantissimo, perché tutte le pazienti che vengono da me dicono: ma io voglio essere come mi fanno certi nomi. E poiché questi nomi poi io li conosco, perché alcune vengono da me e so come in realtà sono, devo perdere sempre 10 minuti per dire: ma guardi che non è vero. Non è quello così. Che vede. Ecco, quindi io utilizzerò molto il tuo servizio, lo farò comprare tutte le mie pazienti per dire: guardate, questa è la verità. Ecco, quindi brava. Poi noi medici e dermatologi abbiamo veramente una grande responsabilità purtroppo in tutto questo, perché possiamo modificare un viso e non sempre, purtroppo lo ripeto, modificarlo in meglio. Credo che un medico debba invece avere il gran compito di far capire alle pazienti che la bellezza esiste quando è autentica, quando è naturale, e quindi si può aiutare la pelle a star meglio, migliorare l'idratazione, il turgore, l'elasticità, per dare quella bellezza che è legata all'emozione che si riesce a trasmettere a chi si ha di fronte, con un bel sorriso, con la freschezza della cute, ed evitare ciò che purtroppo possiamo fare, che è riempire questi labbroni, gonfiare gli zigomi e utilizzare cose che stravolgono poi il viso. Io devo dire che gli ascoltatori mi stanno scrivendo, sono per lo più ascoltatori uomini, ad esempio Fabio mi scrive: viva le imperfezioni della donna naturale. Manderei a Simona, che ci chiama da Modena, all'800 24 0024. Buongiorno. Buongiorno Simona, lei si sente bella o come si sente lei? Ma io mi sento una persona assolutamente normale, che pensa che l'età che avanza, vabbè, io sono 33 anni, quindi però possa, ovviamente posso tenermi tranquillamente i miei segni sul mio volto e sul mio corpo, nel senso. E anzi, il mio intervento voleva essere proprio in quel senso, perché io ho una bimba ad esempio di 11 anni, quindi ho una bimba già in fase preadolescenziale, insomma, che sta notando i cambiamenti del suo corpo e tutte le evoluzioni, insomma. E riflettevo che veramente è molto rischioso, cioè noi mamme abbiamo, secondo me, un compito molto arduo, che è quello appunto di trasmettere il valore, però il valore vero del proprio corpo alle nostre figlie. Quindi anche noi madri, ok, curiamoci, perché è giusto, perché io anch'io sono qui che sto andando a lavorare, sono truccata, insomma, non sono in pigiama, tutte queste cose qua. Insomma, di Vittoria Puccini poi alla fine, cioè, non è che uno si alza al mattino, si guarda allo specchio e dice: guarda, sono uguale a Vittoria Puccini, siamo tutti un po' diverse da lei, però. Esattamente, io guardo anche pochissima televisione, sono sincera, non so chi sia Vittoria Puccini. Quindi, la guardi sulla copertina di Elle, eh? Ok, ammetto la mia ignoranza in questo senso, insomma. E quindi penso che anche, insomma, appunto, che come madre io abbia un grande compito, insomma, nei confronti di mia figlia. Quindi io guardo il mio corpo che cambia, vedo qualche chilo di troppo, lo posso vedere, lo posso notare, però penso anche che sia giusto accettarmi per quella che sono, insomma, certo. E trasmettere questo valore, che penso sia veramente un valore assoluto per le nostre figlie, insomma. Allora Carlo ci scrive: intanto io saluto Simona e la ringrazio per averci chiamato prima di lanciare i mercati. Ci sono delle donne bruttine che ti fanno girare la testa, delle belle donne che non vanno oltre alla loro bellezza, zero emozioni. Ci crediamo? 800 24 00 24, ditemelo voi. Essere e benessere. Gira, gira il mondo. gira il mondo e giro te. Mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il tuo uscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre da lontani stai come forever. E noi continuiamo a parlare di bellezza, noi ci sentiamo, lo dico alle mie amiche all'ascolto, ci sentiamo belle, gli altri ci fanno sentire belle, che cosa stiamo cercando, che cos'è che non ci piace di noi, che vorremmo in qualche modo cambiare e secondo voi ne vale la pena? Luisa mi scrive, mi è stato detto molte volte che sono simpatica, brillante, intelligente e bella, adesso ho 58 anni e continuo ad avere certe caratteristiche, ma non sono più bella come una volta. Risultato: sparizione totale dei maschietti. Viva la sincerità, Danda! Sì, è stata sincera. No, perché qua bisogna... No, io parlavo anche con i miei ospiti e mi dicono è la donna affascinante, la donna che ti strega, la donna che no, ti seduce con anche piccole imperfezioni, però... Sì, lo diceva German Greer, che era una famosa femminista americana. Dopo i 50 anni diventi invisibile a un certo tipo di sguardi, no? Che è lo sguardo per strada, che se sei una donna mediamente carina sei abituata in Italia a sentirti addosso. Però dalla nostra ricerca emerge anche, ecco, che l'età migliore per una donna sono i 40 anni, rispetto a... solo forse l'età delle nostre mamme è un bel passo avanti, nel senso che abbiamo guadagnato anni di bellezza, mettiamola così. Le donne si sentono più belle oggi rispetto alle loro mamme, perché sanno di avere una giovinezza un pochino più protratta. 40 anni comunque è un'età, diciamo, magnifica, già, direi. Sì, di tutto rispetto da tanti punti di vista. Professor Di Pietro. Beh, io vedo che ci sono chi anche... arriva da... quando sì. Uno inizia a pensare di avere qualche cedimento, di dover mettere un po' a punto la bellezza? Ma, sì, 40 anni è il momento clou. 40 anni è un momento importante in cui una donna prende coscienza un po' del proprio corpo, ha risolto già tanti problemi, guarda avanti e comincia a preoccuparsi del tempo che passa. Io ricordo che 40 anni, 10 anni fa erano l'apice. Negli ultimi anni invece ci si sposta anche un po' più in là, verso i 50. Io ho molte pazienti cinquantenni che sono bellissime. Perché ci stiamo spostando noi, no? Perché sì. Spostandoci vediamo i nostri coetanei, certo. E diciamo, però guarda che sì. Bella. Sì, però insomma io non credo che dopo i 50 anni non ci siano più maschi che guardino, perché cambiano un po' i gusti, ma io credo che si debba anche un po' pensare che può essere strano che una trentenne si preoccupi tanto che qualcuno non gli offri più la caramella o il palloncino o di che vuoi fare un giro sulla giostra, ecco, cioè a 10 anni, a 15 anni succede, a 30 no, e a 50 succedono altre cose che non succedono a 30. Insomma. Luca ci chiama da Firenze, buongiorno. Luca, forse dovrebbe... No, non mi dicono niente. L'ho appena fatto. Fantastico, grazie Luca. Di spengere la radio. Ci racconti? Esatto. Non mi dica anche a lei che le piacciono le donne autentiche e che non siano belle, non importa. No, perché ne arrivano tanto. Sì, l'ha fatto. Mi racconti perché? Beh, molto semplice. Mi sono in una situazione di lavoro... semplicemente mi sono innamorata della donna che sembrava quella meno, anzi che era quello meno appariscente, che era assolutamente naturale e che oltretutto era, si sottostimava come bellezza, che... e io gli ho detto guarda ti sbagli. No, mi dica bene, guarda ti sbagli, però se mi mette lì solo così non mi... guarda ti sbagli perché? Ti sbagli perché in realtà te sei la più vera, Lenissi, qua dentro, e lei si è quella illuminata. Che mi ha colpito. E quello che mi ha colpito di te è proprio questa autenticità assoluta, ovviamente non solo fisica, però anche quella. Grazie Luca. Alberto, Luca ci dà uno spunto che poi commentiamo anche con Danda, perché anche nella ricerca sicuramente ma un dato direi che a questo... Luca ci sta dicendo che è nell'essenza che si trova la bellezza, cioè è davvero nell'essere e non nel costruire un falso essere, e direi che è un po' anche quello che ogni donna ogni giorno probabilmente deve decidere per se stessa, cioè comunicare il proprio vero sé attraverso gesti che presidiano la propria bellezza, ma che possono essere gesti di cura o gesti ossessivi, cioè che vanno nella deriva di dover fare cose incredibili per essere diverse da come si è. Secondo me accettarsi, partire dalla consapevolezza dei propri punti di forza e dei propri punti di debolezza, dalla propria magnifica imperfezione, significa poi accogliere un ideale di bellezza che ci rende unici e autentici. Vorrei dire all'ascoltatrice 58enne che a me è venuta in mente subito Mary Streep, mamma mia, è una donna che viene riavvicinata da tre uomini che l'avevano conosciuta in giovinezza e che la trovano bella o ancora più bella di come l'avevano incontrata, ed è realmente di una bellezza così autentica che ha generato una passione dilagante nel mondo delle donne, cinquantenni, quarantenni, trentenni, sessantenni, piace alle ragazzine, piace alle signore di 50 anni. Ciò che rende brutta una donna, ecco, è la sciatteria. Cioè, io posso vedere una donna di 50 anni ben tenuta, con gusto, che veste bene, i capelli tenuti in ordine, anche con il trucco giusto, e denota una cura verso di sé, dove i particolari sono dei difetti, ma ci passi oltre. Ma se una donna è sciatta e poi anche brutta, è lì il disastro, quindi la sciatteria. E adesso noi parliamo di donne, ma poi sarebbe da fare anche una puntata sugli uomini a proposito di sciatteria. Ma Danda, torniamo a noi. Dalla vostra indagine viene fuori, si capisce se noi donne cerchiamo di prenderci cura di noi per noi stesse o in qualche modo per piacere agli uomini? Quanto lo sguardo di un uomo fa la differenza? Guarda, è un po' difficile spaccarlo scientificamente il dato, nel senso che se tu lo domandi la donna spontaneamente ti risponde: lo faccio per me stessa. Nella realtà sappiamo tutte noi donne che cresci sempre vedendoti anche nello sguardo di un altro, e da una certa età in poi un particolare tipo di sguardo è quello che ti dà la conferma se sei carina, se piaci, se non piaci. È difficile, è proprio secondo me nell'essere femminile nascere sempre con questa immagine riflessa di te da scrutare alla mattina quando ti alzi, alla sera quando vai a letto. È proprio una cosa nostra, che adesso sta diventando un pochino anche maschile, finalmente, perché un pochino di narcisismo in più e di attenzione al proprio aspetto sicuramente ce l'hanno anche gli uomini. E secondo me comunque non è neanche da drammatizzare o da esasperare o da colpevolizzare, siamo così, siamo fatte anche per piacere. Il corpo femminile da sempre, per gli artisti, per i poeti, per tutti, sì, assolutamente, è armonia di forma, è morbidezza, è bello. E io vorrei commentarlo proprio insieme al professor Giuseppe Scarrafia, docente di letteratura francese all'Università Sapienza di Roma ed esperto di seduzione. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Professore, lei che è un esperto di seduzione, trova che le donne di oggi, molto più alla ricerca della bellezza rispetto al passato, lo fanno perché sono più libere e sicure di sé, oppure perché si sentono più insicure e giudicate? Sicuramente possono costruire quotidianamente la propria bellezza perché sono più libere. Al tempo stesso hanno a che fare con degli uomini più impauriti, più intimiditi, uomini che non ritrovano più la classica spalla sessuale femminile, quindi devono accentuare la bellezza, la seduzione, per far capire all'uomo che, anche se sono entrate vittoriosamente nel mondo del lavoro, della politica, però rimangono sempre donne, rimangono sempre degli oggetti del desiderio. Alberto, tu proprio commentavi prima di entrare in onda di queste, no, di questi uomini che sono un po' impauriti da queste donne un po' tutte rifattone. Ma io riprenderei proprio... Avete sempre paura di tutto, però, o no? No, io di base... Non mi piace, ma no, io so in generale qual è la donna che io ho cercato nella mia vita e trovo che effettivamente è molto dentro un concetto di saper essere, più che sapersi trasformare o apparire diversa da ciò che è. Penso che, come diceva anche la direttrice Danda, lo sguardo dell'altro è uno sguardo che restituisce il senso di... chi sei e in qualche modo il significato proprio dello stare in relazione. E credo anche che questa ricerca spasmodica di una bellezza estetica costruita dentro allo specchio sia un po' una cartina tornasole del fatto che probabilmente siamo molto meno amati. Già da quando siamo bambini, lo sguardo di una mamma e di un papà che ti accompagna nel percorso di crescita ti aiuta non a diventare bella, ma a sentirti bella e quindi in pace con il tuo corpo. E se hai quello sguardo dentro, lo vai poi a cercare in un amore, in un compagno, in una compagna che ti restituisce il valore della bellezza non che hai, ma che sei. Se manca quel deposito d'amore nella tua vita, a quel punto la bellezza ti deve essere restituita da uno sguardo dell'altro che è uno sguardo non che ama, ma che giudica e quindi ti fa entrare in un percorso di irraggiungibilità della soddisfazione. Allora, pensiamo allo sguardo che ci ha accarezzato, anche da quanto, che ci ha accolto, che ci ha fatto sentire bella. Io devo salutare Danda Santini, a cui avevo detto ti rubo 10 minuti, ma poi è stato piacevole, ti ho rubato un sacco di tempo. È stato ma... un piacere anche per me. Grazie per Danda, grazie per essere stata con noi. Professor Scarafia, lei resta invece con noi, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ecco, lo sguardo, quello sguardo che ci ha fatto sentire belle. Essere e benessere. Professor Scarafia, lei crede che il ritocco, tanto lo fanno tutti, no? Più o meno invasivo, aiuti il potenziale seduttivo di una donna o lo metta a rischio? Lo metto a rischio quando abbiamo le famose labbra canotto, il seno di misura 6, cioè l'eccesso mette a rischio, ma se no è una pratica ottima e va fatta, però ecco, civilmente, con moderazione, non cercare di stravolgere la base fisica che si ha. Professor Di Pietro, al centro del dibattito sulla bellezza ha fatto la sua comparsa un nome da qualche anno che prima era coinvolto in tutti altri scenari, la tossina botulinica. Lei da sempre è un... detrattore, no? Sì, in parte, sì, no? Sì. Tanto che ha lanciato anche un sito botulinfree, .com, in cui raccoglie raccolgo tutte le storie di chi ha usato la tossina botulinica per essere più bella e che ha avuto degli effetti collaterali che spesso vengono tenuti nascosti, no? Il messaggio che passa attraverso i giornali o la TV è che la tossina botulinica sia l'elisir della bellezza senza nessun effetto collaterale. Ecco, io credo che invece sia giusto far sapere che può avere degli effetti collaterali, poi uno decide, certo, in piena libertà se farlo o non farlo. Come anche discutibile la bellezza, no? Che si ha quando si paralizzano dei muscoli, ed è una bellezza estremamente discutibile perché è tutto paralizzato e quindi si perde la vera bellezza, no? Che è l'emozione che si riesce a trasmettere quando si parla di fronte a qualcuno. Quindi insomma è una posizione abbastanza difficile da tenere quando il mondo sembra andare in un'altra direzione. Ci sono tante donne che lo scelgono per avere un effetto più giovane, più appiattito direi, e tanti professionisti che la usano perché si sottolinea che rimane esperte nelle giuste dosi, insomma, anche se poi la tossina botulinica sappiamo che serve in diversi ambiti, dall'iperidrosi a delle... Sicuramente, la tossina botulinica è un farmaco e quindi è utile quando bisogna trattare delle patologie, ma nel caso della bellezza secondo me è molto da mettere in discussione, soprattutto far sapere i reali effetti che può dare ed esserne consapevoli. Ecco, per questo botulin free, scritto quindi liberi dal botulino, .com, per saperne un po' di più. E intanto noi andiamo a salutare una nostra amica che è in linea, che è bella, sportiva e intelligente, o meglio, io direi intelligente, sportiva e bella. Abbiamo in linea con noi Margherita Granbassi. Margherita, ciao! Ciao, buona giornata a tutti quanti! Come metti questi aggettivi? Che sequenza dai? Sportiva innanzitutto, perché probabilmente la prima cosa che mi sono della quale mi sono resa conto quando ero bambina, no? Perché ho fatto sport da subito. Poi intelligenza non lo so, insomma, boh, vediamo. E poi la meno importante probabilmente l'aspetto estetico, via. Sì, però insomma si nasce anche così. Tra l'altro, Margherita, lo sport è un aiuto alla naturale, alla bellezza della donna, delle persone in genere, è anche un aiuto anche a sentirsi bene nel proprio corpo. Beh, sì, assolutamente. Ovviamente una persona con un fisico atletico, dinamico e tonico ha più possibilità di essere carina e soprattutto sana, insomma, perché non dimentichiamo che lo sport si rende il fisico più bello, ma lo rende anche più sano e più forte. Professor Scarafia, ci sono dei modelli, no, di donna che vanno un po' di moda prima, no? Siamo passati ad esempio anche, se ci ricordiamo, Twiggy, il fisico assolutamente da grissino, poi adesso adesso forse sta un po' scomparendo, ma la donna con molto seno, un po', ecco, cambiano un po' in relazione alle mode, l'ideale della bellezza. Lei, da esperto di seduzione, che cosa vede? Come sta cambiando? Ma io vedo un modello multirazziale, un modello meticcio, in cui appunto non so, ci possono essere dei glutei sudamericani, adesso siamo tornati a un seno nordico, un certo taglio di viso, ecco, però vedo l'imperativo quasi ossessivo della seduzione, e questo ci riporta anche al problema dello sguardo, cioè in realtà la donna sa che è molto facile ottenere da uomo uno sguardo sedotto, ma sa che chi la giudicherà bene, che dirà questa si è rifatta qui e là, ha dalla cellulite, così è l'altra donna, è l'esperta. Eh sì. Noi, è lo sguardo della donna. Quando una donna ti fa un complimento, se è tua amica, tu dici sì, guarda, questo allora è vero. Se ti dice ti vedo bene, non sei neanche, allora sei dimagrita, perché a noi piace quando ci dicono ti non magra, ti vedo dimagrita, un effetto. Giovanni, buongiorno da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo dire questo, le donne in generale hanno tutte uno charme. Sì. C'è chi l'ha più accentuato, c'è chi ce l'ha meno, è un po' come il fascino, per dire, no? Il fascino viene costruito col tempo e con l'esperienza in base al soggetto, come vuole apparire, dipende, certo, dalla sua cultura e dal proprio bagaglio interpersonale, socioculturale che si porta addietro. Certo. Perché queste ricchezze automaticamente vengono espresse con il linguaggio del corpo. Ma Giovanni, io capisco, la teoria, lei è partito benissimo, ma lei di una donna alla fine che cosa guarda? Me lo dica. Cioè, la prima cosa è il comportamento generale, come si muove generalmente. Ecco. La prima cosa la vedo da lontano, prima di vedere gli occhi ho bisogno di avvicinarmi, ma quando mi sono avvicinato devo avere già notato i suoi modi di muoversi, praticamente il linguaggio del corpo. Il linguaggio del corpo, poi si passa agli occhi e poi che cosa guarda? Mi dica la verità. Il modo di parlare, l'aspetto fisico, ok, linea di massima è quello che ho sentito dire, che avete già elencato tutti, linea di massima, ma in fondo io cerco qualche cosa che nell'insieme possa perdurare nel tempo, come condivisione di idee, per un rapporto duraturo. Esatto. Grazie Giovanni. Margherita, con il professor Scarafia dicevamo, è un po' lo sguardo, no, delle donne, che ci fa sentire a posto, belle o non belle. Capita anche a te? Come ti guardano le altre donne? Certo, è vero che un complimento fatto da una donna ha quasi un valore in più, no? Un valore aggiunto, è vero, anche se alle volte magari te li fanno un po' così, quasi perché si sentono il dovere di farlo, non sempre devi essere molto sicura di quello che ti dicono, no? Perché talvolta magari ti dicono come stai bene con questo vestitino, invece in realtà sei un botolo, sei malissimo, siamo tremende, dai, ammettiamolo, siamo tremende. Però insomma, io prima ascoltavo con molta attenzione il discorso sul fatto di piacere agli altri. Sì. Devo dire che io su questo forse c'ho una così un pensiero un po' anomalo. Io prima di tutto devo piacere a me stessa, perché mi è capitato tante volte, no, di ricevere dei complimenti e di non sentirli miei. Sì. In realtà. Perché magari io stavo passando un periodo negativo per altre cose e che influiva anche sul mio umore, diciamo, nel vedermi allo specchio. Per cui prima di tutto sei tu, no, la prima persona che si vede la mattina quando ti specchi. E io spero oggi, però, che dopo questa trasmissione le nostre amiche, io per prima, domani quando ci alziamo, anche oggi quando, perché noi ogni tanto allo specchio ci guardiamo, ecco, alla scusa di andare un attimo in bagno e fare pipì, una ripassatina, dice oddio, ecco, ci guardiamo con altri occhi, con quello sguardo a cui faceva riferimento Alberto Pellai, che spesso è uno sguardo che fa crescere in noi la percezione della nostra bellezza. Ecco, se non ce lo regalano gli altri, regaliamocelo noi. Intanto, prima di salutare e ringraziare i nostri esperti, volevo ricordarvi che anche quest'anno noi saremo presenti al Salone del Libro di Torino dal 12 al 16 di maggio. Radio 24 proprio si trasferisce al Padiglione 2 con le trasmissioni in diretta, e naturalmente questo è un preinvito. In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, il Salone è dedicato alla memoria come seme del futuro, e in particolare una mostra ripercorre 150 anni di editoria italiana e tra queste propone 15 libri che rappresentano la storia d'Italia, da Pascoli a Guareschi, da Eco a Montale. Allora, perché tutto questo? Perché voglio mandarvi sul nostro sito di Radio 24, dove potrete votare il libro che per voi è il più significativo e rappresentativo tra questi 15. Nei giorni del Salone vi diremo qual è il libro di questi 150 anni. Tra l'altro, chi vota, e questo non è un dettaglio ma una cosa abbastanza importante, riceverà un buono da spendere su libreriarizzoli.it. andate quindi sul nostro sito, veniteci sempre a trovare. Professor Scarafia, Margherita Granbassi, professor Di Pietro, Alberto Pellai, grazie a voi. Continuate anche a scriverci sul nostro profilo Facebook. Buona bellezza a tutti. Essere e benessere.